Capitolo 4. Guide celesti e universi. Pim. Chi siete? È da un po' di tempo che vi faccio domande, e che mi rispondete. Potreste parlarci un po' di voi, delle vostre esperienze su Gaia, e magari anche delle vostre esperienze celesti? Guide e maestri. Siamo consapevolezza non incarnata, parte dell'uno. Non siamo altro che consapevolezza non incarnata, parte dell'uno. Siamo vostri fratelli e sorelle universali, o vostre guide, se preferite chiamarci con questo nome. Cosa vuol dire per noi essere guide? Vuol dire essere servizio. Siamo al servizio. Siamo servizio. Senza giudizio, senza critica, senza aspettative, senza richieste, senza insegnamenti, senza dottrina, senza superiorità. L'individualità di ciascuna delle nostre note particolari è irrilevante in quest'ora. Siamo accordati su un suono unico e omogeneo, che vorremmo mantenere da ora in ora senza tornare all'individuale. Le nostre discese su Gaia sono state innumerevoli, ed abbiamo fatto esperienza di tanto, e partecipato alla nostra crescita e alla crescita dell'uno, così come state facendo voi in quest'ora. Allo stesso modo voi siete stati consapevolezza disincarnata in molti ora, capaci di raggiungere e connettervi con ciò che era incarnato nel mondo fisico. Siamo sempre uno, mai separati. In cielo ciò che esiste è, ancora una volta, crescita gioiosa. Noi stiamo crescendo gioiosamente attraverso queste conversazioni con voi. Anche se il nostro suono è unico, in quanto non siamo incarnati su Gaia e quindi non siamo sottoposti all'oblio, stiamo comunque partecipando al vostro modo di percepire ed osservare la realtà terrena e fisica, e questo ci dà la possibilità di crescere a nostra volta. Conversazione sulle guide celesti e sugli universi. Pim. Tutti hanno guide celesti? Ci avete detto che vi abbiamo chiamato, che di conseguenza il contatto tra noi e voi è diventato più reale, e così sono iniziate queste conversazioni. Mi chiedo, e vi chiedo. Tutti gli spiriti incarnati hanno guide celesti? Guide e maestri. Sì, tutti hanno guide celesti. Nessuno è solo. Siamo uno. Non c'è alcuna divisione. L'unica separazione esistente è quella creata dalla nostra intenzione, cosciente o no, di essere soli e separati. Tutti hanno guide celesti, tutti hanno la capacità di essere in contatto con ciò che non è fisico. Siamo uno ed eterni. Naturalmente il desiderio di ascoltare ciò che arriva in risonanza con la nostra nota originaria è una scelta, e non è mai forzata in alcun modo. Ciò che desideriamo comunicarvi è che questo tipo di guida, questo tipo di comunicazione, questo tipo di suono, è sempre lì, a disposizione di chiunque desideri farne parte. Ma le modalità del contatto possono variare. Il suono è quello originario, ma con la capacità di accordarsi alla nota particolare di ogni punto di consapevolezza, e quindi le modalità di contatto possono variare in continuazione. Il modo in cui stiamo avendo le nostre conversazioni è in risonanza con la vostra nota particolare. Per qualcun altro la risonanza potrebbe risiedere in certi profumi, nella comunicazione con il mondo animale o vegetale, in suoni, in incontri particolari, in un libro, nei sogni, nella visualizzazione di energie sottili, nell'oceano, nell'arte, nella scienza, nella fisica, nell'astronomia, nel camminare, nel correre, in qualsiasi attività che risuona con i nostri desideri più profondi, con ciò che ci fa sentire innamorati dell'ora, e quindi in risonanza con l'uno. Questo passaggio terra vibra in amore, con amore, di amore. È una storia d'amore eterna. Questa intera creazione è una storia d'amore infinita. Pim. Si dice che volare e camminare sull'acqua per Gesù fossero cose assolutamente possibili, proprio perché decise di scendere su Gaia senza il filtro dell'oblio. Quindi Gesù, e probabilmente altri spiriti evoluti prima e dopo di lui, poteva fare cose che altri spiriti incarnati su Gaia non possono fare. Io ad esempio, e me lo avete confermato proprio voi, non posso volare o camminare sull'acqua. Immagino che ci sia un'ottima ragione per tutto questo. Mi piacerebbe capire perché ci sono spiriti che scendono con il filtro dell'oblio e altri invece, Gesù ad esempio, no. Ci avete detto che siamo uno, tutti parte dell'uno. Ma questa differenza può far pensare che forse c'è una specie di gerarchia tra gli spiriti. È così? Guide e maestri. Non esistono gerarchie celesti. Non parleremmo mai di gerarchia. Questo è un termine che appartiene al mondo dell'ego. Non smetteremo mai di ripeterlo, non ci sono buoni e cattivi, più intelligenti o meno intelligenti, meritevoli o non meritevoli. Questo è il mondo del dualismo che ha la sua ragione di essere su Gaia perché vi dà la possibilità di scelta tra ciò che risuona con la vostra nota originaria e ciò che è in disaccordo. Nel mondo del non fisico, dell'uno, c'è solo unità. Lo spirito è l'uno, e l'uno è lo spirito. Nel mondo fisico si possono osservare le varie sfaccettature dell'unità. Il livello di consapevolezza, di coscienza interiore, è ciò che risalta. Un divano non ha la consapevolezza del guru in India, ma è comunque una rappresentazione dell'uno, e quindi spirituale in natura. Tutto è spirito, o uno, o sorgente. Pim. Ciò che dite non è proprio facile da capire. Guide e maestri. Un modo che può aiutarvi a comprendere questa realtà, è osservare le immagini dei vostri telescopi terrestri. In alcune fotografie l'immagine di Gaia è chiara e dettagliata, ma comunque non potete distinguere voi stessi o gli altri, o il divano di casa vostra, o la macchina che guidate, o il bancomat da dove ritirate i vostri soldi, o l'ospedale dove andate a curarvi. Gaia è osservata come un corpo unico, un'unità. Potete poi continuare ad osservare le immagini del vostro sistema solare. Ancora una volta Gaia è visibile insieme agli altri pianeti, il Sole, le varie lune. È comunque più piccola rispetto alle immagini precedenti, è parte di un sistema unico. Guardate ora alle immagini della vostra galassia. Non distinguete più Gaia o il vostro sistema solare. Il tutto è un uno in un sistema chiamato galassia. Osservate ora immagini della galassia più vicina alla vostra e vi sarà praticamente impossibile individuare la Via Lattea. Ancora un'unità. Ora riportate la vostra attenzione al divano di casa vostra, o al bancomat dietro l'angolo di casa vostra. Sono separati dall'uno, o sono espressioni dell'uno? Il livello di coscienza è ciò che in qualche modo ci dà un tratto se vogliamo particolare. Non separato, non meglio, non peggio, unicamente una nota, una risonanza particolare, che è basata sul livello di crescita di quella nota stessa. La tua nota è parte di una sinfonia universale ed eterna, e senza la tua nota la sinfonia non sarebbe la stessa. Sei importante, sei amato al di là di tutto, sei espressione totale dell'uno. Sei una nota di una sinfonia eterna, una nota con il suo suono, la sua frequenza, il suo tono. Ogni volta che cresci in armonia, la sinfonia si riaccorda di conseguenza, e ogni qualvolta qualunque nota cresce in armonia, il tutto si riaccorda di conseguenza. La sinfonia è in continua crescita armoniosa e movimento, e ogni punto di coscienza, ogni nota, attraverso la sua crescita partecipa alla crescita del tutto. Per rispondere alla tua domanda sugli spiriti, non esistono gerarchie ma unicamente note in continua crescita armoniosa. Gesù è sceso con una certa nota interiore e una capacità di crescita che non richiedeva la presenza dell'oblio. Era Gesù più evoluto del resto del mondo? In assenza di termini migliori, diremmo più cosciente e più espanso. Era Gesù il Figlio di Dio? Certamente, così come chiunque altro nell'intera creazione. Ha cercato di risvegliare il ricordo in molti e di alzare il suono dell'energia di Gaia, e sicuramente, a parte le varie manipolazioni dei suoi insegnamenti, è riuscito a trasformare tanto. Anche le cosiddette manipolazioni sono state e sono ancora parte della varietà di Gaia e punti di riferimento per la nostra continua richiesta di scelta e miglioramento. Altri universi. Pim. Il mio gatto è spirito, Gaia è spirito, probabilmente ci sono infiniti altri universi che sono spiriti, ed inoltre l'infinito è in continua espansione. Quindi in ogni ora tutto non solo è infinito ma è anche in continua espansione. Difficile da comprendere con la mente razionale, ma forse l'intuizione e i videogiochi così attraenti per le nuove generazioni possono aiutarci ad avere un'idea. Ci avete detto che su Gaia la legge della dualità è stata creata per giocare a conoscerci e a scegliere se espanderci verso l'amore dell'uno o verso la paura. Ci sono altri universi? C'è dualità anche lì? Guide e maestri. In realtà vi muovete continuamente da un universo vibrazionale a un altro, in relazione al livello di risonanza che avete con la frequenza primaria della vostra nota originaria. Esistono a livello di frequenza varie versioni di voi stessi. Esiste Pim calmo e tranquillo, Pim arrabbiato e triste, Silia sicura e ricca, Silia preoccupata e scoraggiata. Queste versioni di voi stessi esistono come potenzialità vibrazionali. Ogni qualvolta intrattenete pensieri, risonanze energetiche, di tristezza e rabbia, la vostra nota originaria diventa più felice e serena. Pim. Che strano, non riesco a capire. Perché? Guide e maestri. Perché nel momento in cui sentite la tristezza e la rabbia, il malessere vi spinge a desiderare gioia e pace. La vostra nota originaria riconosce unicamente il suono di gioia e pace, diventando, in quell'ora particolare, gioia e pace. Ed ecco che la versione di Pim armonizzata con un suono di gioia e serenità nasce a livello di frequenza. L'universo di Pim gioioso e sereno è completamente diverso dall'universo di Pim arrabbiato e triste. Nel momento in cui Pim nel suo corpo fisico, e nell'universo di tristezza e rabbia, riesce a condividere la frequenza di Pim gioioso e sereno, si sposterà a livello di risonanza in quella particolare realtà. A quel punto l'esterno, anche se a livello dei cinque sensi è esattamente la stessa cosa, produrrà circostanze ed esperienze in accordo con l'universo di Pim sereno e gioioso, esperienze che non potrebbero mai manifestarsi nell'universo di Pim triste e arrabbiato, perché le frequenze sarebbero in completa disarmonia l'una con l'altra. Pim. È tutto per me così nuovo, e un po' strano. Guide e maestri. Respirate profondamente. È veramente molto semplice. Ma è sicuramente un caos completo per la vostra mente razionale. Parola d'ordine, intuizione universale. Torniamo alla tua domanda su eventuali altri universi e sulla dualità. Ci sono anche altri universi dove la forma si manifesta in modi differenti, dove la legge di gravità non esiste, dove gli elementi primari si organizzano in modi diversi. La dualità è senz'altro un segnale di grande possibilità di crescita, ed è presente nel mondo fisico. Senza la dualità è complicato avere punti di riferimento. Siamo liberi di fare esperienza di qualunque cosa, in qualunque modo. La crescita gioiosa è sempre il motore primario, non importa dove, come, quando. Universi paralleli. Pim. Alcune cose che avete detto mi fanno pensare alla teoria degli universi paralleli. A sentirvi sembrerebbe quasi che siamo tutti astronauti, qui ed ora, e che il passaggio da un universo all'altro dipenda dalla nostra frequenza, più o meno elevata. Quello che mi è sembrato di capire è che se ci eleviamo, usando parole, azioni, pensieri allineati con la nostra nota originaria, passiamo ad un universo con un'energia più alta, e la realtà di quell'universo è gioiosa ed espansa. Se scendiamo di vibrazione, l'energia e la realtà di quell'altro universo sono pesanti. Quello che mi è venuto in mente è possibile? Guide e maestri. È esattamente così. E non l'avresti potuto intuire o spiegare meglio. La fisica quantistica sta giungendo a spiegare ciò che è sempre esistito. Questi universi paralleli di cui tanto si parla in questi ora non sono altro che versioni di uno stesso uno, con possibilità diverse l'uno dall'altro, ma sempre uno. Le versioni sono infinite, tanto quanto lo sono le nostre scelte. Comprenderete anche che con questa visione tutto esiste qui e ora, e che a livello di frequenza tutto è creato istantaneamente. E comprenderete inoltre che la realtà vibrazionale, o più semplicemente il mondo dei vostri pensieri, è ciò che richiede la vostra attenzione primaria, sempre e comunque. Ciò che vedete manifestato fisicamente in questo ora può essere considerato già passato. Pim. Altro concetto davvero difficile. Perché? Guide e maestri. Perché è il risultato di un vostro modo di pensare che ha raggiunto la maturità necessaria per manifestarsi in materia. Quindi è corretto dire che è la manifestazione fisica di una realtà di pensiero che già appartiene al passato. Pim. Ciò che state dicendo può essere utile praticamente nella vita di tutti i giorni? Guide e maestri. Certamente. È per questo che vi invitiamo a continuare a guardare e osservare solo gli aspetti che risuonano con la vostra nota originaria, che vi fanno sentire bene. È così che continuerete a manifestarli negli ora a venire. Ed è per questo che vi invitiamo a non restare con i vostri pensieri e convinzioni sugli aspetti che vi fanno sentire male, che non risuonano con la vostra nota originaria. Se ci resterete, continuerete a perpetuare ciò che non desiderate negli ora a venire. Focalizzatevi sulla realtà che rispecchia ciò che vi rende felici. A quel punto, a livello di pensiero, siete nell'universo realtà dove Pim sta crescendo in una certa direzione. In quell'universo tutto è organizzato in accordo con la nota di Pim gioioso, e quindi le manifestazioni fisiche saranno lo specchio, la prova, di questa nuova realtà. Le possibilità sono infinite, ma, e questo è un grande ma, la risonanza con la vostra nota originaria vi guiderà sempre e comunque verso la realtà dei vostri desideri più profondi. Ogni volta che avvertite disarmonia, è perché vi ostinate, per convinzioni particolari, a restare in un universo non armonizzato con la vostra crescita interiore. Di solito vi ostinate perché mettete troppa attenzione su ciò che state vivendo e che non vi piace. Il movimento di osservazione di ciò che non vi piace è necessario, nel senso che vi permette di distinguere ciò che non desiderate da ciò che desiderate. Ma il restare con pensieri e convinzioni legati a ciò che non desiderate, vi tiene in una sinfonia che non è in accordo con la vostra nota originaria, dove risiede il vostro benessere più profondo. Pim. Voi siete in un universo parallelo? Guide e maestri. Noi vibriamo ad una certa frequenza che non è fisica, quindi, in un certo senso potremmo parlare di un universo parallelo, anche se l'espressione in sé appartiene al linguaggio umano, nel senso che quando pensate ad un universo parallelo vi immaginate l'universo come mostrato dai vostri telescopi e percepito dai vostri occhi umani. Ci piacerebbe di più parlare di frequenze. L'unica ragione per la quale non ci percepite fisicamente è perché la nostra frequenza non è percepibile dalla struttura dei vostri occhi fisici. Noi siamo qui. Tutto è qui e ora. Pim. Si può davvero passare da un universo all'altro, e magari venirvi a trovare? Guide e maestri. È ciò che stiamo facendo ora. È ciò che potete fare in ogni istante. È una questione di frequenza, non di località. La localizzazione appartiene unicamente al mondo fisico, e anzi, per essere più precisi, appartiene al mondo della mente e del pensiero lineare, dello spazio, del tempo, delle distanze. È tutta percezione e leggi fisiche, ma questo uno è suono, frequenza. Più densa, meno densa, alta, vibratile. Ci potete venire a trovare in ogni ora. Siamo sempre qui. È il suono, frequenza, che ci unisce, non la fisicità. Pim. Sento il desiderio di fermarmi. È stata una bella conversazione. Grazie. Guide e maestri. È stata una bella conversazione anche per noi. C'è solo amore ed espansione gioiosa.